Oh ragazzi, sono sempre a mungere io, sicché non vengo stasera, mi sembra proprio il caso, Madonna serpenta. Ci si vede venerdì al mercato, giuro vengo io. Ciao! Eccoci, eccoci tornati in diretta. E un saluto. Oh, buongiorno a tutti. Si parte col botto anche oggi. Super botto, ma un saluto particolare a chi lo volevate fare? No, innanzitutto a tutte le radioascoltatrici, i radioascoltatori, la diretta del podcast che ci stanno dando enormi soddisfazioni fin qua. Questo prima di tutto va detto. E poi un grandissimo saluto a tutti coloro che stanno raccogliendo le olive in questo momento. Ciao, ciao. Esatto, sappiamo benissimo che siete lì e che è sull'olivo. Salutateci e chiamateci, mandateci una mail subito dall'olivo, ma attenzione. Ma attenzione? Perché mi sa che quest'anno la resa. lavure. No, salutiamo veramente tutti i raccoglitori e le raccoglitrici che sono già probabilmente alla prima settimana di lavoro. Chi ha macchina, chi con le manine, chi ha mani nude nel fango, questa lotta fra la natura, i frutti, raccoglie cose, bocca al lupo, frullino. E a Frittole si sta per seminare anche grano? Si semina. Ma chi lo sa, speriamo. A Frittole si semina sempre. Si semina sempre ed è sempre bello seminare qua e là. Però in particolare in questo momento siamo un attimino in ansia perché manca pochissimo, ha tante scadenze, fra cui la semina del grano. In bocca al lupo a tutte. A tutte, mi raccomando. Diamo un attimo un paio di informazioni. Questa è Radio Contado, che forse ancora non avevamo detto. Ogni mercoledì dalle 2:30 alle 4:30, che potrete ascoltare ovviamente nelle sue repliche, due volte a settimana, non mi ricorderò mai quando, la dama sicuramente le sa. Di mattina alle 9:30 o il sabato alle 19:00 oppure sulle frequenze 13:59 se siete solo a Firenze, zona quinto, 13:59, quarto, terzo, poi piano si arriverà ovunque. No, e poi ricordiamo la nostra fantastica mail. Assolutamente, radiocontado@insiberia.net. Fioccano le mail, siamo arrivati a tipo 12. Siamo, sì, le vedo ora in questo momento. Diviso due. Quando superiamo la prima paginata si fa una festa. Scriveteci. Però io vorrei ricordare ai miei due carissimi correligionari che abbiamo superato i 500 podcast della prima puntata. Abbiamo volato duro. Voliamo, grazie. Grazie davvero. Grazie. Bravi. Ma... il bello dei podcast è che lo potete scaricare e ascoltare in qualunque situazione. Io non ho mai capito come si scaricano, un giorno lo saprò. Te lo farò vedere. Andate lì sulla pagina podcast di Wombat, c'è la lineetta dove ascoltare e sulla destra c'è un simbolo del Partenone, di un tempio greco, che cosa c'è lì? Sì, ho capito. E lì vi manda al sito di Archive, da dove poi potete scaricare in OGG, le MP3 eccetera. Lo scaricate e quindi non in base alle scalette, dettagli. Oggi sono nerd. E così potrete portarci sempre con voi, insomma, interessante. Che culo. Senti, camicia, ma di cosa parliamo oggi? Sono curiosissimo. Perché... beh, oggi abbiamo un sacco di ospiti, no? Devo dire. È gremito lo studio, infatti, di tanti amici. Abbiamo... è gremitissimo. Cioè, li salutiamo di già, allora. Nome in codice, Antoine. E vale... Sì. Antoine e vale 09. Nome in codice. Nonché di nascosto un aiuto regista coi controfiocchi che speriamo di vedere presto, così sdoganiamo il buon camicia. Stiamo facendo anche formazione qui a quasi importante a Frittole. Addirittura l'aiuto regia, ragazzi. Ma di cosa parliamo oggi? Ci riallacciamo subito a quello che è successo settimana scorsa. È avvenuta una cosa bellissima in Piazza Tasso, una grande festa di quartiere. Di cui parleremo un po' più con calma dopo il prossimo brano, ma insomma, se vorremmo parlare di tutto ciò che viene qualche modo abbandonato, che siano piazze, terre, strade, case, e che poi viene, a cui viene poi ridata una dignità, che viene rivalorizzato, quindi sono temi importanti. Quindi, cari miei, dopo tanto girare in lungo e in largo per l'Italia, siamo stati a Taranto per un paio di settimane con la radio, simbolicamente, oggi si torna nel cortile di casa, dunque? Sì, direi di sì, abbiamo girato troppo. È il momento di fare il cambio dell'armadio, come diceva Mulo prima. È bene occuparci anche un pochino, insomma, dei panni nostri. Esattamente. Anche perché, proprio perché tutti e tante stanno raccogliendo le olive, sappiamo benissimo che moltissimi stanno raccogliendo olive in terreni che fino a qualche anno fa erano assolutamente lasciati lì a deperire. Adesso è molto importante, quindi, insomma, dargli voce a chi sta facendo questo lavoro di custodia e di presidio di posti che sennò chissà dove finirebbero. E questo è un po' il tema, secondo noi. Grandi, e quindi, prima di arrivare a presentare gli ospiti in maniera più dignitosa, ad avere un ospite al telefono, Valentina, che già introduciamo. Valentina 010, chi lo perché sa? È un altro chi Valentino. E allora andiamo con un po' di booming. Sì, andiamo al pezzone. Per connetterti, cliccare, ritwittare. Non avrai tempo di stonarti e poi fare un salto a prendere una birra dopo aver messo in pausa. Perché la rivoluzione non verrà trasmessa su YouTube. La rivoluzione a reti unificate sarà gentilmente offerta dalla nuova Fiat in prima serata, senza interruzioni, con la voce fuori campo di un attore famoso e le parole scritte da Marchionne. Gemme di rivoluzione brilleranno in TV, così le scambierai per squallide minchiate. Poi trasmetteranno uno show di Fabio Fazio e ti diranno: questa sì è la rivoluzione. La rivoluzione non sarà prodotta da Endemol e non avrà per protagonista il vincitore di Masterpiece o Peppa Pig o Dexter Morgan. La rivoluzione non ti darà denti bianchi e splendenti. La rivoluzione non sarà pronta in 5 minuti. La rivoluzione non ti farà sembrare 5 kg di meno, perché la rivoluzione non sarà quella trasmessa in TV. Dei vinti e ai panza non resterà più niente da scrivere. Non ci saranno immagini tue di Bonovox che fate beneficenza per le anime dei morti. La doxa farà 100 sondaggi al minuto, Mediaset andrà in diretta dal tuo buco del culo, ma la rivoluzione non sarà quella trasmessa in TV. La rivoluzione non verrà trasmessa su YouTube, perché la rivoluzione è quel che avviene dopo. La rivoluzione non sarà un video da postare su Facebook per avere l'impressione di esserci stato anche tu. La rivoluzione verrà fatta con ogni mezzo necessario, ma nessun mezzo necessario farà la rivoluzione. Non ci saranno immagini di sbirri che si tolgono il casco, ma innocue pecorelle sbranate a parole. Poi faranno la moviola di ogni sasso tirato. Ogni bottiglia vuota sarà una molotov già pronta. Ci saranno gli infiltrati, i black bloc e la violenza. Ti diranno è sbagliato tagliare le gomme di una Porsche, senza capire quanto ci si sente bene dopo. Tanto importanti. A nessuno fregherà un cazzo del cazzo di Berlusconi, perché i dannati della terra daranno fuoco ai lager e avranno diritto di delinquere anche loro, ma la televisione passerà tutto quanto come se fosse l'ultima serie sugli zombie. Nei servizi speciali al TG delle 20, chiederanno un parere a Baricco, a Saviano, ti mostreranno Letta i funerali di Mandela, o gli antifascisti i funerali di Pippe, che tanto i morti non spaventano nessuno. La sigla non sarà l'inno di Mameli, e a cantarla non verrà il vincitore di X Factor. Che Guevara e Madre Teresa si manderanno a fanculo. La rivoluzione non sarà quella trasmessa in TV. La rivoluzione non partirà al termine dell'annuncio sul bianco più bianco o sul fardello dell'uomo bianco. Non dovrai preoccuparti per i pinguini al telefono, i delfini curiosi o mucche tinte di viola. La rivoluzione non ha bisogno di metterti le ali. La rivoluzione non sarà la gente contro il potere. La rivoluzione non si farà senza terrore. La rivoluzione non sarà quella che passa in TV, quella che trovi su Google, quella che puoi mi piacere. La rivoluzione non sarà uno spettacolo on demand. La rivoluzione potrai farla sempre e solo dal vivo. Sarai te con il di olive patè. E io mi compro un X3. Non dobbiamo chiamarlo patè, dobbiamo chiamarla salsa del conte. Belle giulive con il patè di olive. E bentornati. No, vabbè, questa cosa qua ha da finire al più presto perché mi sento... Il patè di olive sta diventando veramente uno spot meraviglioso. È un po' un tormentone il patè di olive. Dopo un bel pezzo, come la rivoluzione non sarà trasmessa su YouTube, siamo subito tornati a frittole con un po' di ilarità, che è importante, come è importante la convivialità. E quindi eccoci qua, pronti via con l'ospite Valentina del comitato per Viale Corsica. Benvenuta Valentina. Ciao, allora siamo un attimo qui a regolare i volumi perché giustamente le nostre interviste telefoniche sono sempre degli azzardi incredibili. Allora, comitato abitanti in Viale Corsica, ci puoi un po' dire insomma chi siete e com'è nato? Sì, dico più o meno quando si è formato e più o meno di cosa si occupa. Praticamente è un comitato di formazione spontanea e si è formato circa un annetto e qualche mese fa in occasione della previsione di abbattimento di tutti gli spostamenti che riguardavano il Viale Corsica. E niente, in quell'occasione ci siamo ritrovati per strada e abbiamo cercato di organizzarci per salvare almeno quegli alberi che dalle stesse verifiche tecniche comunali risultavano sani. Ci siamo opposti in maniera pacifica per lo più. All'inizio abbiamo fatto delle colazioni resistenti, chiamiamole così. Poi il giorno dell'abbattimento sembrava in realtà che fossimo divenuti a un accordo col comune, sembrava che ci avessero accolto l'istanza poi di rispettare le loro in realtà le loro verifiche, e invece purtroppo non è stato così. Quindi abbiamo provato a opporci all'abbattimento degli alberi sani, purtroppo non ci siamo riusciti, e diciamo che con la forza ci hanno allontanato, e niente, il comitato successivamente ha cercato di contrattare appunto col comune perlomeno sulle specie arboree, perché la previsione era di piantare scalamento nel famosissimo ormai alle cronache però cinese. Niente, siamo riusciti a farci piantare invece qualche acero, ma sostanzialmente una sconfitta per noi imposta, ovviamente, e guadagnata da parte loro con un comportamento terribile, con la forza, con, ci hanno mandato delle camionette, insomma, quando eravamo un gruppo di civili pacifici che chiedevano cose giuste che anche secondo loro erano giuste. Certo. Di lì abbiamo continuato a prenderci cura della nostra via, del nostro quartiere, cercando di avvicinarci ad altri comitati quando ce n'era bisogno, cercando di mantenere vivo il nostro quartiere, piccole azioni di autocostruzione, non so, piccole aiole, piccole cose, e poi ci prendiamo cura della nostra area carente, in fondo alla via, e che è uno stuvo grande per tutto il quartiere. Questa è un po' particolare in realtà, perché la zona era delle ferrovie che probabilmente verrà ceduta al comune per poi farlo diventare un parcheggio. E a questo momento c'è il nostro nuovo. La nostra nuova lotta, E questo non ce l'auguriamo proprio, almeno. No, assolutamente. Ma non sentimi... abbiamo bisogno di parcheggi. Ma una domanda, Valentina. Da questo racconto si capisce che a unire un gruppo di persone che prima non si conoscevano è stata una lotta di fatto, che poi è andata bene o male, questo non focalizziamoci. Però ma da è lì... Stata... È bellissimo, perché adesso nel quartiere ci conosciamo in tutti, non lo voglio dire, però in tanti, quindi c'è un mutuo discorso continuo, da cose piccole di casa a piccoli favori, e comunque c'è un modo di vivere la città completamente diverso. E questo è veramente bello, e quindi sì. Da questo modo di vivere diverso nasce l'evento di questo fine settimana, che è una delle motivazioni. Esatto. Ci vuoi dire sì. Due cose, raccontare qualcosa sì, in più? Sì, vi racconto qualcosa... praticamente parte tutto da un pranzo condiviso intorno a mezzogiorno e mezzo, in cui ognuno può portare quello che vuole, poi ci saranno vanettini per tutta la giornata di genuino clandestino e di mano in mano il mercato di scambio e di riuso, e dopo il pranzo, se speriamo sia più conviviale possibile, alle 3 abbiamo un appuntamento con Park, il collettivo di architettura, in una passeggiata finanziaria, diciamo così, per le vie, per ripensare la nostra strada, ci focalizziamo un po' intorno all'area Cani, diciamo, la piazzetta e l'area Cani, e tutti insieme a dare nuove idee di come vorremmo che fossero questi spazi. Seguita poi da una fase di disegno collettivo, quindi una fase molto creativa, molto divertente. Che ci proponiamo poi insieme al collettivo architettura che tutti gli eventi poi con una certa programmaticità diventano una realtà. Beh. Le cose che proponiamo poi alle 3:30 nel frattempo c'è anche un piccolo torneo di basket, cioè l'area basket, anche dall'area fuori, e dalle 6:30 una serie di concerti e Mr. Oliver e Polvere. Bellissimo. Una giornata insieme creativa, divertente, conviviale, un po' più. Bravissime, complimenti davvero complimenti. Per questa organizzazione e tutto il vostro lavoro che seguiamo attentamente, insomma. Adesso grazie. Dobbiamo salutarti per tempistiche, andiamo al mercato e poi ci vediamo venerdì in Piazza Tasso, ovviamente, come ogni venerdì. Volentieri. E poi al vostro evento sabato. Grazie mille, Valentina. Grazie, ciao. Ciao. Dunque, se ho ben capito, cara camicia e cara dama, questo fine settimana inizia a diventare un attimo denso, perché venerdì va bene, mettiamo i nostri banchini sulle macchinine, arriviamo in Piazza Tasso, facciamo il mercato, dopodiché torniamo a casa, sabato cosa succede? Rifacciamo una situazione simile, andiamo a fare la festa di Corsica. Bellissimo, con l'obiettivo di fare questo tutti i giorni della settimana, quando poi quando c'è convivialità e lotta politica insieme lo faresti tutti i giorni, perché è importante ora come non mai. Sono feste popolari. È importante lasciarci qualcuno nei campi, sennò poi al mercato non ci si va più, ragazzi. Vabbè, ma siamo in tanti, dai. Una voce fuori onda. Scusate. Voce fuori onda un po' risentita, perché l'abbiamo portato via dal momento della presemina. Pensavo fosse Radio Belgrado. E ancora non lo abbiamo... Infatti qualcuno ce lo lasciamo nei campi, vogliamo dire chi... Sì, vabbè, però aspetta, io c'avevo il gancio giusto, perché stavamo dicendo che il nostro fine settimana inizia a diventare denso, perché abbiamo detto venerdì, abbiamo detto sabato, e quindi domenica ci si riposa? No. No, per nulla, perché anzi per domenica nulla. È un giorno, sarà un super giorno di festa, proprio perché si parlava prima, comincia il raccolto delle olive e ovviamente si deve cominciare sempre con una gran festa e con bellissima musica, e questo succederà quindi... dove, Mulo? No, io lo chiedo a te, tu lo chiedi a me, e chi ci risponde? E lo chiedo a Vale 03. Ciao a tutti. Ciao. Come dicevano Mulo, Dama e Camicia, domenica 28 ottobre ci sarà una festa di inizio raccolta a Mondeggi. Quindi dalle 9:30 comincerà la raccolta collettiva delle olive, tutti insieme, bambini, anziani, giovani, rivolta a tutti, stenderemo le reti e raccoglieremo tutti insieme le olive. Dopodiché alle 12 ci avremo degli ospiti, un grande concerto del coro e orchestra Desiderio da Settignano, che è un'orchestra nato nell'89 grazie a Johanna Knauf che ha fondato questo coro e amatoriale, ma anche formato da professionisti, che si riunisce regolarmente a Settignano. Ma Vale 010203, dici un po', ma chi può partecipare a questa festa inizio raccolta, quindi alla raccolta delle olive? Chiunque. Ma servono requisiti particolari? No, solo voglia di stare insieme e di raccogliere insieme le olive. Ma come vengono raccolte? A mano, qualche agevolatore... Qualcosa che frulla c'è. Allora, scusate un attimo. Scusate. Anche perché di quanti olivi si parla? Intanto, ecco, perché chi è che parla? Sancio. Ciao Sancio, benvenuto in studio. Benvenuto. Grazie, ciao a tutte e tutti. Io sono Sancio e qua vi parlo da Mondeggi. Intanto faremo la raccolta collettiva questa domenica, lanciando questa festa di inizio raccolto, perché come ogni buona pratica contadina è meglio cominciare, come diceva Camicia, con una festa propiziatoria, ecco. E quindi ci auguriamo che vada molto bene questa raccolta, e poi la facciamo in un appezzamento di terreno che il comitato di Mondeggi Bene Comune ha recuperato insieme e che ha dedicato all'utilizzo collettivo, ovvero tutti i ricavati dell'olio che si farà da queste olive andranno a finanziare quelli che sono i progetti all'interno di Mondeggi, quindi appunto sia dalla ristrutturazione delle strutture presenti dentro a Mondeggi, ai macchinari agricoli, a appunto diverse iniziative che si vorranno organizzare durante l'anno. Quindi questo è lo strumento attraverso il quale la comunità di Mondeggi si aggrega e custodisce un terreno che prima era abbandonato. Incredibile. Ma io abbiamo ricevuto una mail in diretta, attenzione. Fioccano. Sì. In diretta. Grazie a Fabrizio che ci ha scritto dal treno. Ha detto che lo streaming va a singhiozzi e fin qua purtroppo internet è quello che è qua a frittole, sai. Siamo nel 1500, quindi vabbè. Chiedeva, attenzione, c'è una domanda che io giro direttamente ai nostri carissimi ospiti, ma per un profano come me, qual è il periodo di inizio e fine raccolte olive? Illuminatemi, cioè la festa di inizio raccolte vuol dire che verso sera si sarà finito. La festa o la raccolta? No? La raccolta? La raccolta sarà, si terminerà durante, ci sarà prima un momento prima durante... durante la mattina e un altro durante il pomeriggio, senza faticarsi troppo, perché poi in questi momenti si raccoglie, sì, si lavora, ma anche si festeggia, quindi diciamo fino alle 4, alle 5 del pomeriggio ci sarà la raccolta, e poi appunto, come diceva Valentina, l'orchestra e tutte le altre varie attività. E fino a quando invece si raccoglieranno olive? Questo che ce n'è. Questo si spera il più possibile prima della almeno neve, fino a dicembre. Diciamo che qua da queste parti si potrebbe andare avanti anche per molto, ecco, anche fino all'anno nuovo, però ci fermeremo a un certo punto. E poi c'è da raccogliere olive per il patè. Per il famoso patè, e soprattutto da sabato cambia l'ora, quindi dai, alle 5 uno già a fare l'aperitivo, no? Magari davvero buio, sulla questione aperitivo qua. Ma scusate, torniamo un attimino più seri. Quindi abbiamo eccola qua la paraculata della puntata di oggi, cioè abbiamo chiamato non solo Viale Corsica e tutto il collettivo che sta dietro per l'evento del 27, abbiamo chiamato qui ospiti i ragazzi da Mondeggi per l'evento del 28. Che cosa hanno in comune questi due eventi? Ovvero, stiamo parlando di aggregazione dal basso, recupero di quartieri in città e spazi aperti in campagna. Che senso ha oggi, e lo chiedo a entrambi, poi chi vuole rispondere risponda, che senso ha oggi recuperare queste cose? Che cosa hanno in comune questi due eventi? Bene, ci complimentavamo per la bellezza del giornalismo di Mulo. Allora proverò a rispondere a questa difficilissima domanda molto attuale. Diciamo che sia Mondeggi che Viale Corsica, ma in generale chiunque si muova nel campo dell'autogestione, delle lotte popolari, sa benissimo che l'importanza di riacquistare innanzitutto un contatto, che è quello con della comunità, ossia ricostruire un'identità collettiva che il capitale durante queste centinaia d'anni ha distrutto lentamente, quindi creando una disgregazione sociale molto forte. Quindi innanzitutto queste pratiche, queste forme sia di riappropriazione degli spazi che di riappropriazione di una presa di parola servono appunto per ricostruire quella che è un'identità collettiva e sentirsi parte appunto ed insieme a qualcuno. E spesso appunto il sentimento più frequente in città come in campagna, quando alla base non abbiamo una comunità, è quello di solitudine. Ecco, questo è quello che non vogliamo provare mai, e cerchiamo di rispondere in questi termini, cercando di creare dal basso organizzazione, sfruttare quelli anche che sono i grossi vuoti che vengono lasciati, come sono stati i terreni di Mondeggi, prima abbandonati, poi è stata tentata una speculazione. Sappiamo benissimo però che non sono solo i terreni di Mondeggi, ma qualsiasi cosa purtroppo all'interno di questo sistema viene utilizzata, viene sussunta dal sistema. Quindi cerchiamo e proviamo a riprenderci questi spazi. È bellissimo, direi che secondo Valentina invece vuoi aggiungere qualcosa alle bellissime parole di Sancho? Ma ha detto abbastanza un po' tutto. Magari potrei aggiungere appunto per una cosa che riguarda Mondeggi, che per arrivare a costruire comunque una comunità e non rimanere appunto nella solitudine, si è creato, oltre il presidio permanente qui a Mondeggi, anche un progetto che si chiama MOTA, Mondeggi Terreni Autogestiti. Siccome qui le olive a Mondeggi sono tanti, quindi e tante quindi c'è bisogno di tutti e tutte per curarli e per raccogliere le olive che andrebbero a terra. E quindi si è creato, cioè ci sono particelle di 35 olivi che sono state adottate dalle persone sia del paese, dei paesi limitrofi, sia da gruppi di ragazzi fiorentini, famiglie fiorentine, anche da Bologna qualcuno viene a curare la particella e raccogliersi le olive per poi fare l'olio. E questo è un buon modo per portare avanti questa terra qua abbandonata. Scusate, e come le avete coinvolte tutte queste persone? Ci è voluto un po'. All'inizio abbiamo provato con delle assemblee giù nei paesi limitrofi, ma la risposta è stata veramente bassa, molto, è stato molto difficile. Siamo partiti da una decina di persone interessate, ma che comunque erano un po' titubanti, dice ma comunque là non è, siete legali, bla bla bla. E quindi niente, però piano piano, a forza di parlare con le persone, a forza di passaparola, eventi, iniziative e quant'altro, siamo riusciti via via a coinvolgere sempre più persone. E attualmente ci sono quante particelle? Sanno? Adesso sono all'incirca 140-150 particelle. Particelle. E quindi vuol dire quante persone più o meno? Ma almeno 140. E più o meno sono curate almeno da due persone le particelle. Poi ci sono anche gruppi di 5-6 persone che magari cura la particella. Quindi è difficile stimare le persone esatte. Sì. Anche perché poi che partecipano attivamente al progetto in realtà non sono tantissimi, perché comunque vuoi la vita personale. Comunque non poche, dai, no, complimenti. Comunque non poche, siamo contenti di questo. Diciamo che come diceva Valentina, uno degli aspetti anche con cui siamo riusciti ad aggregare appunto questo è la possibilità, no, di costruire insieme un percorso di accesso alla terra, per cui le stesse persone che prima erano titubanti del territorio, ma anche di Firenze, quando hanno visto un territorio che era stato abbandonato ormai da 7 anni, che aveva prodotto 1,5 milioni di debiti e sul quale anche gli stessi cittadini poi non potevano più neanche utilizzarlo, passeggiarci. Mondeggio è un luogo di passeggiate, un luogo di passaggio, è sempre stato questo anche nel corso della storia. Queste stesse persone hanno capito che forse era più importante dare legittimità a un'esperienza del genere che soffermarsi sull'aspetto legale. L'altra sera l'ha ricordato anche durante una puntata alla televisione su Rai 3, Mimmo Lucano anche diceva lui riguardo alla sua particolare vicenda, anche le leggi naziste erano legali durante quel periodo, eppure sono state un disastro per l'umanità. Quindi anche questo è un modo per far capire alle persone che non tutto ciò che è legale, che è consentito, è giusto. Certo, basta pensare insomma alle nuove leggi razziali che in un modo o nell'altro, no? Si stanno 60 giorni al decreto Salvini per attenzione, far diventare legge. 60, dobbiamo lanciare il countdown. Ma stavi proprio lanciando quello che saranno le prossime domande, Sancho, perché oggi l'AgriQuiz che prende il posto di Minima Rurale in questo scambio, certo, incredibile, di tempo e di modi. Si occuperà, giusto. È giustissimo, è bello, è dinamico. Cioè, approfittare della presenza dei nostri ospiti, non per sminuire il muro, vogliamo rassicurare. Assolutamente, avrà sempre il primo posto nei nostri cuori. Sono onorato di cedere la mia mezz'ora a lui in cambio di 35 minuti. No, è difficilissimo mantenere i 30 minuti in questo posto per ogni rubrica, e soprattutto Mulo ha qualche problema di sintesi, ma le diamo. Sì, sono in culo da due analisti diversi, perché a uno solo non bastava, potevo dire. Uno fa la sintesi della volta prima, no? E quindi andiamo con l'AgriQuiz, parleremo proprio di questo oggi, cioè di quali sono gli strumenti più appropriati per riappropriarsi delle terre. Vamos ao AgriQuiz e precisamos de separador humano. António Raminhos. AgriQuizettone che torna ancora questa settimana, resiste con tutti i temi tecnici e non di cui vorreste sentir parlare, di cui vi incuriosiscono, e soprattutto scriveteci a radiocontado@insiberia.net per sapere un po' di quali sono gli argomenti di cui vorreste ascoltare di tutto e di più, insomma. Quindi siamo pronti, abbiamo già affrontato temi di allevatura, orticoltura, viticoltura, e oggi invece parliamo di riappropriazione di terreni abbandonati. Allevatura mi piace. Allevatura è molto bella. L'altra volta ho detto la spollinatura degli ulivi, una gaffa a volta me la devo fare. E oggi l'allevatura e l'olivamento. Oddio. Eccoci qua. Con Sancho e tante altre ospite. Si dice il plurale, tante altre ospite. Stiamo sfondando i muri della grammatica. Siamo oltre, Camicia, vai sereno. Il nostro linguaggio non di genere, ovviamente, ormai spopola. Il problema è che siamo un po' confusi noi altri. Sì, è un po', sì, problemi di... Esatto. Non ti preoccupare, basta subito. 3, 2, 1, AgriQuiz. AgriQuiz, come ogni settimana. Bene, Sancho, carissimo. Riappropriazione di terre abbandonate. Prima di tutto, un consiglio così al volo a chi ci ascolta. Bisogna farlo o no? Bisogna riappropriarci delle terre abbandonate, o una perdita di soldi, di tempo, è meglio andare nei terreni già belli coltivati, che sai già che in un anno ti danno e via? Pagando l'affitto. Pagando l'affitto, non pagando l'affitto, bisogna farlo, non bisogna farlo, e diciamo che è un po', per me è un po' una risposta retorica, diciamo, certo, bisogna farlo. Io, cioè, anche solo considerando un dato, l'Italia è un paese che attualmente più del suo 60% popola le città, e la maggior parte sono territori. Sappiamo benissimo che al centro Italia passa una catena montuosa degli Appennini e le Alpi. È un territorio comunque sia molto ostile sia all'agricoltura che a diversi tipi di pratiche contadine, di pesca, eccetera, eccetera. Per cui tantissimi paesini, tantissimi terreni con l'avvento, come Minima Ruraia sta raccontando e racconterà. Non svegliamo niente, per favore. Di certi anni sono stati completamente abbandonate le comunità che vivevano in quei luoghi e che praticavano una tipologia di vita basata anche su il legame più stretto tra le proprie necessità materiali ed immateriali, sono scomparse, no? Per cui, certo, ha un senso molto profondo quello di riabitare, occupare e riutilizzare i terreni e le case abbandonate. Come si può fare per sapere dove sono dei terreni abbandonati di proprietà di qualcuno che li ha lasciati lì da 5, 10, 15, 20 anni? Da qualche parte si può trovare delle informazioni, e nella fattispecie il genio clandestino agisce in questo senso? Beh, diciamo che questa occupazione, anzi, come ci piace chiamarla noi, questa riappropriazione popolare, perché questi luoghi non sono occupati perché sono di qualcun altro, sono occupati perché sono nostri. Nostri è inteso come bene comune, come comunità, naturalmente. Genuino clandestino, diciamo, è che è stato anche proprio la miccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha fatto incendiare i nostri cuori qua a Firenze nel 2013, nel 2014, un periodo molto caldo in cui durante l'onda il collettivo di agraria di Firenze era molto attivo, e a quell'epoca alcuni componenti di Giovane Uno Clandestino incontrarono dei ragazzi di agraria, diverse gas, diverse situazioni e persone, individualità a Firenze, e da lì nacque un percorso che è stato poi, diciamo, una campagna di Genuino Clandestino, che è quella di Terra Bene Comune, e qua nel territorio fiorentino si è tradotto con un comitato prima Terra Bene Comune Firenze, poi una volta scoperti i terreni di Mondeggi Mondeggi Bene Comune, Fattoria Senza Padroni, su cui potete trovare informazioni ovunque, appena si digita Mondeggi sul nostro caro amico, esatto. Google, e cosa viene? Succede di tutto, a parte che escono siti iraniani, esatto. Però sul sito Mondeggi Bene Comune, sul Facebook, su Radio Contado e su YouTube trovate tutte le informazioni, persino fino a Wikipedia. Ma siamo anche su Wikipedia. Addirittura su Wikipedia, sì, insomma, ovunque spopola Mondeggi mania. Ma parlando proprio di questi strumenti, di cui ovviamente il coinvolgimento sulla rete è un aspetto importante, ma per quanto riguarda invece aspetti proprio più pratici, più materiali, ora non so, Sancho o Vale, se eravate tutti e due fin dall'inizio, diciamo, in questa esperienza. Noi qui a Frittole non abbiamo tanti contatti con Mondeggi, non sappiamo tutto, e vorremmo chiedervi quindi quali strumenti all'inizio, come si può arrivare in un terreno abbandonato e con cosa, prima di tutto, che sia materiale e non. Una zappa, un piede di porco, una rete, una batteria Che cosa si arriva? Così è botta e risposta proprio. Secondo me si arriva con un collettivo già formato e con un comitato che ha già bene le intenzioni chiare. Di sicuro con una grande festa, tante persone, così bene, è cominciato. Anzi, la presenza delle persone è importante, cioè essere un gruppo è fondamentale. Io credo che gli strumenti tecnici, materiali, arrivino col tempo, quando col tempo ci sono anche gli obiettivi, però come dicevano loro, innanzitutto che essere un gruppo relativamente affiatato. In quanti eravate a Mondeggi all'inizio? Ma se si parla della festa, eravamo in più di 200 quando abbiamo cominciato quando è cominciato tutto, veramente, perché prima eravamo già presenti. Nel senso che era stata fatta una raccolta delle olive simbolica, una semina del grano sempre simbolica, per essere presenti avevamo messo giù delle cipolle, delle patate, questo molto prima di essere qui in presidio permanente. E poi sì, eravamo tipo 35 in un casale con 10 stanze. E poi pian piano, vabbè, sì, c'erano anche due famiglie. Ed era estate? Sì, era estate, era fine giugno 2014. Quindi, primo consiglio, arrivate nei terreni in estate, perché almeno i primi passi di riappropriazione. Ma già pronti per l'inverno, perché sennò so cazzo. Stufette. Però diciamo, se si parla proprio di mezzi tecnici attraverso i quali conoscere dei terreni, quali sono i terreni abbandonati e soprattutto di chi sono, come ad esempio Mondeggi, appunto, è di proprietà della attuale città metropolitana, quindi questo è un bene pubblico che è stato, diciamo, assegnato a tutti i cittadini. Innanzitutto ci sono Mondeggi, come altri luoghi, sono stati trovati attraverso innanzitutto la conoscenza di contadini e persone della zona, che avevano un quadro molto più chiaro di quello che era il territorio circostante, e conoscevano i terreni e sapevano consigliarci. E poi esiste anche un database di quelli che sono i terreni demaniali e abbandonati. È stata fatta, diciamo, si chiama Banca della Terra, e all'interno di questa Banca della Terra vengono indicati tutti gli appezzamenti di bosco, seminativi, oliveti, terreni abbandonati di proprietà pubblica, per cui questo è un dato molto significativo e importante, proprio se ci si vuole muovere in quel senso. Come riappropriarci di spazi che sono già nostri? Bene, ma adesso... No, scusate, c'è stato un momento di distrazione. Si salta sulle sedie ogni volta che mandano una mail. Ho ricevuto una mail, e siamo alla seconda mail di oggi. È già il record. È il nuovo record. Oddio. Madonna, ringraziamo moltissimo. Come si chiama? Petty Rojo. Grande Uewe, siete bellissimi, che chiaramente si capisce in radio, è bellissima la dama. Mancate un pochettino, tanti baci dal profondo Veneto. Ciao Veneto. Attenzione, abbiamo anche ascoltatori dal Veneto, oh, grazie. Sì, grazie mille i puntato per la tua partecipazione. Ci stimola a raccontare qualcosa di Piazza Tasso perché è diventata curiosa. Grazie, grazie al Petti Rosso che ci ha mandato questo bellissimo messaggio. Andiamo con un po' di musica, mandiamo un pezzone di Marcello Perbele, argentino figlio di Mapuche, che ha cantato e ricantato una canzone scritta proprio in onore, come omaggio alla Patagonia, si chiama El Embudo. E Sergio, a chi lo dedichiamo? Ma la vogliamo dedicare tantissimo a Giacomino, Giacomino Benetton, che oggi ci ha lasciati. Dedicato. Venga amico, y le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar, y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste pagos lejanos, dándoles luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, o autopistas de ciudad, o en las comunicaciones, sin pensar por qué razones, nada viene y todo va. Fíjese en el caño aquel, el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a granel, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez, sepa Dios por qué más lejos. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales, y los parques nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos o locales. En sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con bosta de vaca en los ranchos, los fogones. Y aquellas torres en fila sujetando el cablerío se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia. Sí, señor. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo, mentira. Desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia. Aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde, en víspera de elecciones, a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías, minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto. Se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ¿se habría algún sudoructo? Ci auguriamo che non venga fatta nessun sudoructo, come dice Marcello Perbele. Incredibile questa poesia poi in realtà dedicata a todos los que siguen siendo colonia de las gallinas de arriba. Sancho è mulo. Niente, l'ho lasciato senza parola. No, vamos, io non so lo spagnolo, però va benissimo. Ma stavo parlando in spagnolo, Ti succede ogni tanto nel sonno. Ogni tanto, quando mi addormento. Siamo tornati in diretta, sono le 15.19 qui a Fritto, le 13.59 AM, invece è la frequenza Wombat in cui seguirci, radiocontado@insiberia.net, terza mail di oggi. Palla in rete per Camicia. Camicia, sei un figo, vai Carmine. Terza me, grazie Carmine. Camicia, abbiamo creato un mostro. Abbiamo creato un mostro che ci abbandonerà per andare a Red DJ entro breve, mi sa. Ormai le sa tutte. Le sa tutte. Grazie a Carmine che ci ha scritto questa terza bellissima mail. Oggi abbiamo sfondato ogni record. Davvero. E torniamo nell'intensità. Forse la presenza di Sancho Panza. Fa il cartellino come noi. Ma senti un pochino, torniamo alle cose serie con del faceto sempre nel mezzo come il nostro stile. So che tu Mulo avevi una domanda così a bruciapelo che vale due punti dell'agriquiz. Sì. La prima l'ho letta su Wikipedia, devo ammettere, cioè in che anno la famiglia Bardi comprò la villa di Mondeggi? vediamo, buttatela lì. No, era gherardesca. Io so fino alla gherardesca è una famiglia belga inizio anni 70, ma i Bardi no. Non risulta, no, comunque non mi ricordo neanche la risposta. Wikipedia non è aggiornata. Vai su, no, è il 1427, ecco. Vai a vedere vai a vedere su Anarcopedia se dice la stessa data. Anarcopedia non ci siamo neanche. Non ci siete male. Diciamo ai ragazzi di Anarcopedia di aggiornare il loro motore. Sentite. Vabbè. Comunque posso fare il domandone? Fallo. Allora, abbiamo qua gli ospiti di Mondeggia. Allora torno alla sfumatura del quiz. Immagino che Mondeggia abbia un sacco di contatti verso l'esterno. Chiedo io. Sì, abbiamo un sacco di contatti verso l'esterno, diciamo. Allora, una domanda mi è venuta a bruciapelo. Adesso io dico il nome di una città barra una regione, voi mi dite i nomi degli spazi che uno può trovare in quella città barra regione. Bello, mi piace come sei entrato a gamba tesa geografia militante. Partiamo dalle cose facili. E se mi recassi a Roma, dove vado? Roma è facile. Facile. Me l'hai fatta facile. Certo, partiamo dal facile. Allora, innanzitutto ricordiamo che la rete di Genuino Clandestino, il nodo tra i fondatori di Genuino Clandestino, è terra-terra, che si ritrova tutte le domeniche a fare il mercato a Forte Prenestino. Appunto è la rete che rappresenta i partecipanti a vari mercati di regioni come Umbria, Lazio, a volte anche Basso Lazio, Calabria, eccetera, eccetera. Quindi questo è il contatto più prossimo che abbiamo. Ok. Era facile. 1-0 per lui. Sancho, adesso ci spostiamo, come ha detto lui, in Umbria. In Umbria che cosa si trova? Quali reti si trovano? Che cos'è? Allora, in Umbria, questo è proprio geografia politica. Mercato Brado. Attenzione. Mercato Brado che si ritrova a... non a Terni, no, bensì a Orvieto. A Terni, va bene così. So e poi finisce qua l'Umbria. No, assolutamente, c'è fuori mercato. No. Terra fuori mercato a Perugia. Ok. Senti là che rigirino. Senti un attimo, ma se io mi spostassi per esempio in Piemonte? In Piemonte adesso è dura, ragazzi. È durissima perché c'era germogliato, dicono. Come Genuino Clandestino, sì, però forse non le esiste più. Ma vogliamo parlare solo di Genuino Clandestino? No, perché appunto, a Torino c'è qualcosa. Sono altri, cioè, tantissimo. Quindi no, c'è Genuino Valsusino. C'è Genuino Valsusino. Salutiamo Renzo. Quindi Notav, quindi naturalmente tutta la Cavallerizza il Reale, eccetera, eccetera. Ciao Cavallerizza. Occhio. Beh, sono finite le regioni? No, perché quasi tutte le regioni d'Italia hanno dei nodi di Genuino Clandestino. Sì, poi giochiamo in un altro caso. Per esempio, se andassi in Calabria. Se andassi in Calabria ci sarebbe ora la rete Calabria non ha ancora un nome ben definito, cioè un gas che fa il mercatino tutte le settimane allo spazio Il Rialzo, che è l'occupazione storica di Cosenza, e in questi mesi, proprio antecedenti all'incontro nazionale, dalle varie parti di Calabria si stavano ritrovando per riformare, riconnettere il nodo di Genuino Clandestino. Preparato il ragazzo. Allora, scusate, torniamo un attimo di nuovo a delle domande sulle riappropriazioni territoriali, tanto per sapere un po' di più sulle geografie politiche sul sito di Genuino Clandestino. Mi sembra ci sia proprio la mappa, no? Con tutte le reti. C'ho questo sole che mi sta accecando. Ah, il sole bacia, non vedo più i belli. Nulla, godiamocelo. Il sito di Genuino Clandestino. Dicelo pure, damissima. www.genuinoclandestino.it. Facile, fantasia popolare, social popolare. Allora, si parlava di tecniche di riappropriazione di terreni abbandonati, e ecco, immagino che poco dopo tempo subito ci sia, no, un atto di repressione nei confronti di qualcuno che prova a riappropriarsi di una terra che fa parte di un bene comune, come nel caso di Mondeggio e di tante altre realtà in Italia e nel mondo. Come ci si difende a quegli attacchi? Beh, intanto anche Valentina è invitata poi a rispondere, certo, a questa, certo, domanda. Tutte e due. sì, certo, naturalmente ad ogni atto che va contro, diciamo, un ordine costituito, anche come diceva Rosa Luxemburg, un ordine costruito sulla sabbia, poi... Che citazione, mamma mia. A livelli culturali avvengono e ci sono ripercussioni dal punto di vista legale qui a Mondeggio, ma come in tutte le occupazioni, ma non solo, diciamo, a tutte le attività e le pratiche che disobbediscono all'ordine costituito, viene applicata severamente la dura legge della repressione. Come? Beh, innanzitutto non solo attraverso, come possiamo vedere ogni volta nelle immagini, quindi durante i cortei, la repressione fisica, ma è molto più subdolo questo meccanismo. Infatti colpisce attraverso denunce, foglie di via, procedimenti legali, penali, civili, eccetera, multe, eccetera, eccetera, le compagne di compagni da ormai decenni a doversi sbattere in continuazione per reperire fondi per pagare sostanzialmente gli avvocati e i processi legali. Un consiglio rispetto a questo, come tanti di voi saprete già, è premunirsi prima, diciamo, di quello che potrebbero essere escamotage legali, quindi avere un contatto prima con degli avvocati, avere ben chiaro cosa si sta andando incontro, e quindi sulla base di quello provare a proporre qualcosa una volta che arrivi uno sgombro. Appunto, in generale, soprattutto all'inizio, poco dopo, è sempre di un'occupazione, una qualsiasi occupazione, è bene rimanere sempre allerta e vigile e mantenere una presenza fisica anche costante all'interno dello spazio o del territorio. Bene, e un'altra domanda secca, visto che prima parlavi di come utilizzare, cioè di riuscire a trovare anche una forma di autofinanziamento per pagare avvocati, eccetera. Allora rigiro la domanda: tutti i vari eventi che fate là a Mondeggi, come, per cosa poi utilizzate ciò che arriva da... Beh, appunto, come dicevo dai prima, cappelli. Anche rispetto all'Olivetta Collettiva, che è una forma aggregativa, anche una forma di finanziamento. Poi ci sono tutte le varie iniziative che organizziamo durante l'anno, diciamo, a parte forse la scuola contadina, che quella è completamente gratuita. Quando organizziamo cene, eventi, li facciamo spesso appunto benefit o per qualcun altro che ha più o meno gli stessi nostri problemi, ma soprattutto anche per noi, sia dal punto di vista delle necessità di questi spazi. Ricordiamo, qua a Mondeggio sono 200 ettari, quasi 200 ettari di terra, 6 case coloniche, ettari di oliveto, quindi un lavoro anche che si estende su un territorio di quasi due colline. E poi appunto anche dal punto di vista legale ci dobbiamo difendere da un processo per cui siamo imputati in 17 per furto di luce e furto d'acqua e invasione di campi. Ed era in questi giorni? C'è stato un rinvio o qualcosa? Beh, notizia, no? Sì, da un paio di settimane c'è stata la seconda udienza in cui non è stato concluso pressoché niente. A fine novembre si terrà la terza udienza del processo, che è cominciato il 9 giugno scorso. Quindi insomma, da tutti gli strumenti, anche quindi, ecco, questo abbiamo detto della comprensione di in che situazione uno si trova, riuscire a creare eventi conviviali per raccolta fondi, per ripopolare i terreni, per ripopolare le piazze, eccetera. E ricordiamo anche per sostenere anche qualche altra realtà, no? Nel momento in cui si entra in rete, allora uno riesce davvero a garantire almeno che ci sia una visibilità e un sostegno da parte di chi vive anche lontano. E volevo arrivare proprio quindi al punto, ricordiamo la scena che fu fatta proprio per in sostegno alla Rimaflo. Io ci sono stato. Anch'io, è stata molto bella e buona, una cosa giusta, e poi quella di la più recente adesso invece in piazza Tasso, ma ne parleremo forse un po' più dopo con calma, perché ahimè sta già suonando la campanella, che è il momento di la nuova rubrica, ma speriamo che Sancho e Vale non restino qui con noi ancora un'oretta, almeno insomma riusciamo a spolparli, poi toccherà alla dama che farà le domande proprio più intime. La volta scorsa siamo finiti a parlare di solitudine nell'allevamento, chissà dove finiremo oggi. Sì, con grande, tra l'altro, cioè, poi ci ha riscritto la ragazza che, come si chiamava, che è venuta qua ospite, ha scritto: ah, mi avete fatto fare figure di merda, no, grazie che tirate fuori, grazie alla Grebana, il cuore, la passione, questo, grazie per la semplicità. Grebana ci ha detto tante cose belle, e Vale e Nico anche loro delle fornaci, insomma, hanno raccontato davvero cosa vuol dire essere allevatori, e oggi invece stiamo ascoltando cosa vuol dire essere presidianti e custodi del territorio quando lo Stato non arriva. Oh, ma lanci Minima Ruralia o no? Minima Ruralia, volevo mandare posso mandarle un pezzo, tanto te hai sforato di 5 minuti, questo dura poco, dai. Questo si chiama This Land Is Your Land, non ha bisogno di spiegazioni. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust cloud rolling, a voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island. Ma dici, Mulo, ma con chi chiacchiererai oggi? Allora, oggi avremo ospite a Minima Rurale a Wolf Bukowski, che appunto, come spiegherà lui stesso, o meglio, io ho cercato in internet sotto il suo nome, è uscito divulgatore, blogger, allora queste parole gliele ho rigirate proprio in faccia, e lui ci parlerà del Post Expo. Vi ricordate nel 2015? Sì, siete me stati all'Albero della Vita? L'avete visto? Io mi ricordo, perché ai tempi abitavo lì in zona e... Io non ci ho avuto, visto, non ho avuto un attimo di tempo. Ricordo, guarda, il casino. Sì, anche io mi è sfuggito di andare a visitare questa bellissima fiera, però come diceva quel bellissimo cantatore, cosa resterà? Il raffone. Adesso andiamo a vedere anche cosa resta di Expo. Andiamo. Andiamo, vai. Minima Ruralia, la storia, i personaggi, i contesti. Pronti via, nuova puntata di Minima Ruralia. Quest'oggi abbiamo ospite Wolf Bukowski, che è un amico, che è, come dice internet, un blogger, un divulgatore, autore, ricordiamo La danza delle mozzarelle e La santa crociata del porco, e diamo il benvenuto appunto a Wolf, che è al telefono con noi. Grazie per l'invito, ciao a tutti. No, grazie a te di averlo accettato. Ti volevo chiedere, innanzitutto, a te che sei uno scrittore, a te che sei un divulgatore, a te che sostanzialmente sei l'anello di congiunzione fra l'analisi e la diffusione dei contenuti, che cosa significa oggi, 2018, narrazione? Cioè, dove si è distorto questo tema? Sì, beh, domanda molto impegnativa. Dove si sia distorto? Probabilmente nel momento in cui è stato messo al servizio del business e del business alimentare in particolare, o anche nel momento in cui il termine narrazione da ciò che era, quindi ciò in cui poi siamo immersi, perché siamo costantemente immersi in storie, però è diventato un altro modo, un po' più sofisticato, per dire pubblicità. Poi alla fine di questo si tratta. È una fase, secondo me, ormai un pochino calante. Lo storytelling ha già superato il suo boom mediatico, si tornerà probabilmente ad altro, però ecco, alla fine tanti giri di parole però significavano appunto mistificazione e propaganda, quello che a volte si chiamava propaganda non lo chiamava narrazione, e si è un po' si è abusato di storielle, di piccole narrazioni per presentare prodotti, per presentare stili di vita, ecco, questo in maniera anche molto forte, che si interseca molto col cibo, quando in realtà appunto si sta facendo pubblicità. Ho capito, ma considera che per esempio anche questa è narrazione, cioè il narrare rimane comunque il centro del condividere le nostre vite, le nostre esperienze, nel comunicarle ovviamente, però ho come la sensazione che sia diventato sinonimo in qualche misura di falsità. Dobbiamo riportare un livello più umano, più vero, e insomma strappare a questo mondo, ovvero quello della pubblicità, quello della divulgazione propagandistica, diciamo, questo termine. Il genuino clandestino si basa in qualche modo sulla narrazione. Ci siamo resi conto, e qua chiedo anche la tua opinione, di quanto sia ritornato il momento di produrre dei materiali a livello di movimento, a livello di alternativa, a livello di auto-organizzazione. Cosa pensi di questa nuova fase? Sì, allora, produrre materiali sì, che però appunto associno a una narrazione in qualche modo che è necessaria per dire cosa si fa e chi si è, li associno però anche appunto il tentativo di decodificare per esempio la complessità della filiera, per esempio la distribuzione dei profitti all'interno della filiera, e con un tutto può essere poi, no, semplicemente ridotta a una narrazione iper semplificata, come quella un po' pubblicitaria. Per cui sì, c'è quello, però c'è davvero bisogno di riappropriarsi con tutta la fatica del caso, della complessità del tema, chiaro. Ma quanto sono pronti tra virgolette, quelli che vengono definiti consumatori a ricevere questo tipo di informazione, sono ben disposti oppure è l'ennesimo tentativo che va a finire, va a naufragare nel mare magno delle consapevolezze che uno dovrebbe sviluppare? Nella misura in cui sono e rimangono consumatori, ecco la possibilità più concreta è quella che dici tu, cioè che appunto naufraghi in una grande confusione in cui diventa un elemento tra tanti, diventa un'occasione per immaginarsi di fare del bene con i propri acquisti. Ecco, il punto ancora una volta non è mai questo, quindi da un lato è importante costruire delle occasioni anche di filiere economico, microeconomiche, che in qualche modo in una piccola parte ci mangi fino dal supermercato, dall'altra però è sempre chiaro che anche queste filiere devono essere il dito che indica una luna che è altrove, che è appunto il cambiamento dei rapporti economici. Perfetto, infatti questo mi dai l'assist per farti la domanda vera, ovvero non quella scontata troppo generale di come è possibile emanciparsi nel nostro quotidiano, ciascuno il proprio, ma in generale, ecco, se noi tentassimo brevemente, perché il tempo a nostra disposizione è quello che è, però se noi tentassimo di capire quali sono i sotterfugi, quali sono state i meccanismi che ci hanno tra virgolette deviato da una consapevolezza più grande, se noi appunto analizziamo il nostro rapporto con il supermercato, la grande distribuzione, questa economia di massa, ecco, dal punto di vista di noi produttori è chiaro che non può stare in piedi tutto questo meccanismo. Come possiamo spiegarlo? È difficilissimo, va bene, in piazza ci siamo tutte le settimane, però intercettiamo 100 persone su 1 milione. Allora, vabbè, se va un po' spacchettato il problema, nel senso che da un lato ci sono i meccanismi che da un lato hanno portato delle possibilità, diciamo, movimenti tipo Giro del Clandestino, che sono quelli del consumatore che in qualche modo si attiva e richiede di fare delle scelte responsabili in qualche modo. Da un'altra parte però sono anche un grosso limite finché rimangono confinate a questo tipo di attivazione, che quindi rimane all'interno della figura del consumatore, perché il consumatore prima si attiva per fare delle scelte responsabili e poi quando delle scelte più o meno fintamente, narrativamente, nel senso ingannevole del termine, gli vengono presentate come responsabili all'interno del supermercato, allora fa poi prima andare al supermercato, no? Quindi in qualche modo non si può giocare sempre di rimesso, dicendo no, noi siamo un po' meglio del bio e del local magari del supermercato. Bisogna proprio, come dire, indicare qualcosa di diverso, indicare un altro tipo di rapporto con la terra, con la città, con gli individui, col lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questo è, secondo me, solo, questa è solo una parte del problema, ovviamente. Chiaro. Il resto, che è quello di come si è costruita la filiera, come dire, quella è la storia, e questa è la storia delle concentrazioni, è una storia lunga che precede il neoliberismo, ma che poi diventa ancora più aggressiva all'interno del neoliberismo. Quindi è proprio il motivo per cui non è a partire dall'atto di consumo che si può modificare questi rapporti di forza, ma è partendo invece da una consapevolezza politica di classe, eccetera, eccetera, su che cosa è successo. E quello che è successo è appunto politiche europee che hanno orientato sempre verso il latifondo, sempre verso la iperproduzione, quando non addirittura verso un export irresponsabile, e successivamente addirittura, come dire, un indirizzamento molto forte tramite politiche normative, punitive, eccetera, eccetera, verso appunto di nuovo le concentrazioni. Chiaro, e infatti la domanda successiva che mi ero preparato era appunto legata a questi temi, non a caso. Si arriva anche, tra virgolette, naturalmente a queste tematiche. Volevo infatti chiederti che cosa avesse spinto te in prima persona, che quali fossero le esigenze tue alla base dello scrivere i libri che hai scritto. A livello di contenuti sono davvero fondamentali, nel senso che non perché sono al telefono con te li suggeriamo molto, perché chiarificano, mettono in trasparenza quelli che sono i rapporti alle spalle e all'interno dei grandi meccanismi di produzione da un lato, distribuzione, il libro precedente, quello appunto La danza delle mozzarelle. Ci vuoi dire che cosa ti ha spinto personalmente a scrivere di questi temi e diciamo a spendere così tanto tempo e energie nell'esplorare, nell'analizzare i rapporti che stanno dietro a questi libri? Beh, intanto grazie delle tue parole, e poi a parte questo, ma probabilmente è stata anche un po' una coincidenza sul finire degli anni zero, in cui stavo un pochino osservando, anch'io frequentavo un gas, insomma era stato il periodo in cui i gas erano vivaci, si moltiplicavano con una grande confusione poi, no, su ciò che dovesse diventare, e infatti la buona parte di loro è diventata un foglio Excel su cui si fanno degli ordini, però a parte questo, appunto, io ne frequentavo uno e c'erano riflessioni in cui per esempio gli elementi centrali erano quelli sulla normativa, quindi sull'impossibilità di fatto di coltivare, vendere o trasformare soprattutto a livello locale, su piccoli mercati, il proprio prodotto, quindi su una sorta di obbligo a orientare sia la produzione che il consumo verso la grande distribuzione. Proprio in quegli stessi anni, per evidentemente la roba che si respirava, è nata l'idea di genere clandestino, e quindi forse da lì ho pensato che quel tema del cibo contenesse in nuce tante riflessioni che sono poi quelle che mi interessano di più oggi, come dire, che in qualche modo sento di avere un pochino sviscerato a sufficienza il tema del cibo, però le riflessioni rimangono le stesse, quindi la dialettica tra legalità e illegalità, il modo in cui si usa la legalità per imporre un certo modello economico, eccetera eccetera. Queste sono le occasioni remote, diciamo, di occuparsi di cibo, e poi quelle più vicine è stata questa incredibile fanfaronata farinettiana del FICO a Bologna, che è la mia città, e quindi insomma ci ha costretto tutti a confrontarci con tutto quel complesso che è stato lo food, passa per Italy, arriva la COP, e che è costituito, era il nucleo fondante di questo parco tematico FICO. Esatto, e per arrivarci io volevo farti un'ulteriore domanda preliminare. Cioè, che cosa ha significato 2015 Milano Expo, nutrire il pianeta? Che cos'è stato Expo e che cosa è rimasto di Expo prima di arrivare a FICO, a Bologna, a Farinetti nello specifico? Direi che l'eredità, a parte un botto di soldi pubblici gettati in un vortice senza fondo, però a parte questo, che si può dire dell'Expo, ma si può dire di milioni di altre cose. L'operazione ideologica di Expo è stata quella di legare il cibo, ma fare un salto in più, passare allo stile di vita, legarli alla sanità e alla salute, e quindi questo passaggio qui era importante, almeno in quelli che erano i temi imposti dal renzismo. Adesso siamo un po' cambiati, adesso come dire la creazione di nemici sta prevalendo su qualsiasi altra aspetto ideologico sul momento con questo nuovo governo, però nel clima renziano legare il cibo, lo stile di vita, anche con tutta la simpatia che c'era tra Farinetti e Renzi, no? Legare il cibo, lo stile di vita alla salute era molto importante, perché era uno dei modi in cui si poteva procedere a smantellare la sanità pubblica, che è un tema, come dire, caro a tutti, che nessuno ammette, ma che di fatto sta accadendo. Questo lo dico, poi chiaro c'è stata tutta l'enfasi, cioè Expo è veramente un caleidoscopio di aspetti ideologici, no? C'è stato anche tutto quello che diceva: se vuoi contestare qualcosa devi starci dentro, sì. Per cui ha creato tutto quel meccanismo di pezzi di arci o pezzi di società civile, per così dire, che stavano dentro Expo, però facevano, ho sentito personalmente ed è stato veramente patetico, è stato qualcosa di distopico, sembrava di vedere un film veramente di un futuro molto deprimente. All'interno di Expo c'erano le manifestazioni di Lega Ambiente che andavano contro quello che era l'approccio principale di Expo su alcuni temi, quindi era veramente qualcosa, infatti giustamente qualcuno l'ha paragonato a un noto episodio di Black Mirror, chi ha visto la serie capisce Milano per il dopo Expo, perché diceva noi adesso qui faremo, poi è andato tutto in vacca questa cosa, però l'idea era di fare in quel posto lì un enorme centro di studi in cui si sarebbero studiati tutti gli elementi dell'alimentazione, e lui aveva detto, ha detto Renzi, in testuali parole, nel giro di un ventennio in questo modo ridurremo del 30% la spesa sanitaria pubblica. Allora, detto da quelle persone, ovviamente non vuol dire starete tutti meglio e quindi la ridurremo, vuol dire la ridurremo e poi insomma come state sono un po' cavoli vostri, ovviamente questa è la traduzione reale, realistica di quella frase, però insomma il modello era quello ed era importante farlo passare, è un meccanismo proprio di privatizzazione interiore, no? Che precede la privatizzazione in senso stretto, quindi io comincio a appaltare, subappaltare dei privati, gli esami clinici, eccetera. È un renderlo privato nel tuo pensiero, è renderne un affare privato. Se tu ti ammali perché hai mangiato male, e non importa se tu mangi male perché non hai soldi di comprare niente di meglio, certo, o perché fai una vita di merda, perché non hai tempo di cucinare, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. È davvero un quadro altro che distopico. Purtroppo lo vediamo molto reale, specie essendo usciti da pochissimo dall'ambiente, dal clima e senza giochi di parole dall'aria tarantina di cui siamo stati ospiti ormai un paio di settimane fa. Quello che volevo chiederti è cosa rimane oggi, per esempio in una Bologna in cui personalmente sono stato ospite ieri, non c'era autobus che non recasse la pubblicità di Fico, eppure qualcosa è rimasto, e ti chiedo anche, non so tu quanto possa frequentare questa fabbrica italiana contadina, Fico appunto, ma come sta andando questo esperimento in una città significativa come può essere Bologna? Allora, io è da gennaio, diversi mesi, ormai ci avviciniamo quasi a un anno che manco da Fico, però ho anche voglia di tornarci. Di solito l'ho trovato abbastanza deserto, addirittura negli orari, nei giorni in cui, e oggettivamente va molto male, i dati sugli ingressi contano pochi milioni di visitatori e tu fai conto che un normale centro commerciale della cintura bolognese fa tipo 5-6 milioni all'anno, il Fico ne ha fatti meno. Quindi mi dispiace. Come dire, che soddisfazione mi dà tutto ciò? Nulla, se non il dire, avevamo detto che era una boiata ed è una boiata. Il problema è che tale è stata l'enfasi in tutta la città, no? Sul turismo, sui milioni di turisti che sarebbero venuti a visitare il Fico, che effettivamente la città si è trasformata a prescindere dal fatto che questi arrivino o no. E quindi per esempio crescono i prezzi degli affitti perché i proprietari sbattono fuori gli studenti a scadenza di contratto, vogliono a tutti i costi mettere l'appartamento su Airbnb, eccetera, eccetera. Quindi l'effetto c'è, cioè, adorbiato comunque il mercato immobiliare, poi secondo me un bel po' di gente ci sbatterà il naso dolorosamente e ancora una volta daranno la colpa a chissà cosa senza mai riconoscere la responsabilità in questa politica che è stata perseguita a tutti i costi, no? Questa politica della grande opera, del grande esempio, della grande infrastruttura. Certo, quindi il signor Farinetti quindi naviga in acque un po' peggiori rispetto a qualche anno fa, quando c'è stata l'esigenza di scrivere appunto del suo modello imprenditoriale, del suo modello di rapporto con le lavoratrici, i lavoratori. Insomma, sono un po' peggiorati i tempi per lui. Ma guarda, sta aprendo molto all'estero adesso, in Italia credo che abbia avuto, io credo, adesso non ho i dati economici, quindi non voglio dire cose su questo, però un pochino è vittima del suo successo, nel senso che l'Italia è diventata un grande Italy, c'è tutta quella retorica sul prodotto locale, che però poi in realtà non è locale, sulla tipicità che diventa invece una monocoltura, insomma tutte queste narrazioni ingannevoli, hanno avuto un tale successo da essere diventate patrimonio condiviso di tutti i produttori, di comunque avere accesso a uno straccio di pubblicità, crediti bancari, insomma, per mettersi su questo mercato fatto a bolla, certo. E quindi non c'è anche solo lui, cioè lui è stato veramente vittima del suo successo, vittima del fatto che Italy e Italia sono diventate un po' la stessa cosa. Questo poi appunto siamo su un momento di crinale, nel senso che adesso veramente il dibattito politico, i temi politici stanno diventando di una tale brutalità, no? Di una tale violenza esplicita, immediata, un razzismo così marcato, che tutto questo sembra già, no? Un po' per scolorare in un ricordo che fra poco magari ci farà quasi, come dire, sorride. Il piacere prende quel colore sempre andato che ci sembra migliore di quanto non sia stato, anche se in realtà erano le perfette premesse di ciò che accade oggi. Però ecco, quest'Italia fondata sul turismo e tipicità alimentari è stata comunque l'unica idea economica forte, per nulla redistributiva, però è stata l'unica idea ed è tuttora l'unica idea, anche se adesso appunto siamo su altri temi, perché siamo in un momento di totale fallimento. Certo, perché i tempi sono cambiati, quindi indirettamente il signor Farinetti ha, diciamo, preparato la strada per tutt'altri tempi, tutt'altri periodi, e addirittura ha lanciato il modello, tornando a focalizzarsi sul cibo, il modello di un biologico di massa che oggi come oggi è reperibile in qualunque discount, tant'è che ogni grande marchio ha la propria linea, dietro alla quale in realtà, come hai accennato tu, è tutta una grande truffa, perché com'è possibile creare il biologico di massa? Si può fare solo attraverso le parole, non certo attraverso le buone pratiche. Guarda, due cose ti voglio dire su questo. L'uno, la potenza della narrazione farinettiana, che ti fa dire che Italy ha fatto il biologico. In realtà Italy non è solo biologico, ha sempre venduto, però è tale la potenza, no, di questa narrazione sul sano, la salute, il locale, perché non solo tu, cioè moltissime, la maggior parte delle persone pensano che Italy sia solo biologico, no? In realtà quindi questo ti dà l'idea di quanto, non dicendolo mai, si può comunque evocare un concetto con una potenza incredibile. La seconda cosa che volevo dire è che il biologico, secondo me, in qualche misura è vittima di quella stessa, di quello stesso processo che segnalavo prima sulla salute e sul fatto che viene individualizzato l'approccio alla salute. Perché il biologico nasce, mi sono letto per altre cose, un po' di robe vecchie, della nascita di Alcenero, di quando Alcenero era tutt'altra cosa rispetto a oggi, ed era chiaro, cioè lì nasceva con l'idea sì di preservare la salute di chi mangiava, ma anche forse soprattutto di preservare l'equilibrio del terreno, di salvare in qualche modo il pianeta dai pesticidi. Questa era un'idea, quindi era un'idea individuale ma collettiva. Certo. E invece il biologico dell'hard discount, ovviamente un biologico è senza forte di queste cose qui, perché un biologico che io lo compro dall'altra parte del mondo, lo trasporto inquinando ovunque e vada solo al massimo profitto. Quindi questa cosa qui, anche quella è vittima di, no, una mutilazione totale dell'aspetto collettivo e politico e un'enfasi invece sull'aspetto dello stile di vita. E poi scusa, non c'entra, però per, come dire, non volevo, secondo me, prima ho detto questa cosa sul passato, che poi in qualche modo assume tinte meno odiose di quanto non fossero, però appunto non voglio poi in nessun modo cadere in questo errore, voglio quindi ricordare che Farinetti, immediatamente dopo la costituzione del governo leghista grillino, ha subito detto che lui come imprenditore sarebbe stato comunque filo governativo, quindi insomma, il personaggio rimane quello, ecco, rimane assolutamente quello lì. Piangi fermo e in tangenziale, inseguivi una cazzata, era splendida e dorata, fresca e avvelenata. Ma il paese avviandoci verso la chiusura di questa intervista, volevo provare a farti declinare le possibili potenzialità del rapporto diretto, di conoscenza, che attraverso il genuino clandestino, le garanzie partecipate, anche la partecipazione più semplice attraverso i mercati, possono arrivare a proposte come ad esempio qui a Firenze abbiamo sviluppato a partire dalla settimana scorsa la capanna della salute, che può essere appunto un ulteriore momento interno al mercato in cui scambi, incontri un'umanità che può essere molto d'aiuto anche per esempio su tematiche, quelle che hai accennato prima, riguardanti la salute. Ecco, credi che questo sia un'alternativa valida piuttosto che una delle possibili alternative? Quali le sfumature veramente rivoluzionarie in un approccio del genere? No, non ho una grande opinione precisa e determinata su questo. Credo che faccia parte di quella grande riflessione in corso sul mutualismo e di come evitare, no? Di come usare il mutualismo in modo che diventi luogo di incontro, diventi luogo di proposta politica, no? Luogo anche di lotta, e allo stesso tempo invece di evitare che il mutualismo diventi un luogo in cui ci si sostituisce a ciò che non si ottiene più dallo Stato, perché si è rinunciato dallo Stato, dal pubblico, insomma, per intenderci, perché si è rinunciato in qualche modo anche a cercare di conquistarlo. Allora, credo che in mezzo a queste due possibilità ci sia appunto poi una realtà estremamente complessa e un sacco di rischi, però so che la riflessione è in corso, l'esperienza fiorentina, che sicuramente ha una sua centralità in Mondeggi, ovviamente non ha grosse difficoltà a articolare questo nesso tra produzione, mutualismo e lotta politica, perché è una lotta di rieducazione prima di tutto. Quindi insomma, su questo è sicuramente un'esperienza a cui fa riferimento, che può un pochino indicare quali sono le strade giuste. Però grande riflessione collettiva e un sacco anche di rischi che sono gli stessi rischi che poi hanno corso e più delle volte gli sono precipitati i gas, quindi quello di chiudersi in una nicchia e dire, certo, noi tanto qui stiamo facendo del bene, certo, no? Certo. È un bene molto limitato. No, grazie dei preziosi consigli, perché è bene che questa esperienza e la tua esperienza nel particolare sia a disposizione degli altri anche attraverso le tue vive parole. E mentre davvero ci accingiamo a salutarci, perché il tempo purtroppo è tiranno e stringe, io ti vorrei chiedere, così un po' a bruciapelo, se tu avessi dei consigli per una lettura, per una visione, qualcosa che veramente ci possa non condizionare ma convincere della necessità di questo cambiamento d'approccio. Cosa suggeriresti? Allora, no, siccome è proprio bruciapelo, un saggio non, in questo senso non mi viene in mente, perché appunto sarebbero tanti e tutti estremamente interessanti. Per colpa tua hai detto il romanzo, per cui io suggerirei La giungla di Upton Sinclair, che è un romanzo del 1907 in cui c'è una rappresentazione molto vivida dei macelli, però c'è anche tutta la storia di questo romanzo che io trovo estremamente attuale, perché appunto è quella di uno scrittore socialista che rappresenta i macelli, una condizione animale terribile, ma soprattutto il suo punto era una condizione umana dei lavoratori terribili, un grande successo editoriale e infine però sgonfiarsi, no? Lui dopo pochi mesi da questo grande successo editoriale si dice delusissimo, perché ciò che la pubblica opinione ha colto di questa enorme denuncia era solo il fatto che dentro le loro tarsiccine ci poteva essere qualche schifezza in più di quello che pensassero prima. E quindi così, una lettura un po' tangenziale rispetto a questi temi, però che ci dice come in fondo in un secolo e 110 anni alcune cose non sono cambiate. Grazie mille Wolf Bukowski per la tua partecipazione, per la tua collaborazione, ti ringrazio molto e a presto. E tu vuoi far qualcosa che serva, e farlo prima che il tuo amore si perda. Non ti accorgi che se lo vuoi tu, quel che valeva poi non vale più. Se ti andrà mangiare. Se disprezzi puoi comprare, se vale tutto niente vale. Se non sai più se sei un uomo, se hai paura di sbagliare, se hai solo voglia di pensare che fra poco è primavera. Adesso fa qualcosa che serva, anche per te se il tuo paese è una merda. C'è una strada in mezzo al niente, piena e vuota della gente, e non porta fino a casa se non ci io voglio far qualcosa che serva. Fammi far solo una cosa che serva. Dir la verità è un atto d'amore. Fatto per la nostra rabbia che muore. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente la migliore. Sempre bellissimi. Allora è appena sorta l'ennesima polemica interna nella redazione della Decontado. Abbiamo appena scoperto la passione. I panni sporchi si lavano in famiglia sull'Arno. Esatto, abbiamo appena scoperto come che essere in famiglia. Esatto, ma non siamo grazie che la dama abbiamo voluto costruire comunità, io porto alla mia comunità quelle che sono le mie esigenze, perché serve anche a questo una comunità. Abbiamo appena scoperto che Camicia adora gli After Hours e quindi dopo tutta una serie di insulti che sono durati esattamente poco meno di Minima Ruralia, mi dispiace doverlo avvisare, settimana prossima avremo ospite Manuel Agnelli. Chiediamo aiuto, vi prego, ai radio, lo accogliamo a braccia aperte. Ascoltatori, diteci se le io allora invito Emma Marrone. Vi piacciono o meno? Sondaggio. Sondaggio, vi piacciono le nostre scelte musicali? Una mail con su scritto sì significherà no. Non vi una mail con scritto no vuol dire no, vorrà dire no. 4555559. Accettiamo consigli su radiocontado@gmail.net. Nonostante gli after hours dobbiamo andare avanti. Ci piacerebbe, pian piano ci chiederemo 4 ore a Radio Wombat, dalle 2 ore di attuali. Solo per i dibattiti familiari di Mulo e Camicia, anche così daranno libero sfogo. Infatti siamo Mulo e Camicia. Esatto. Non a caso. Allora, si stava parlando di eventi passati, futuri, e insomma, vogliamo fare gli applausi a tutta Sanfrediano per quello che è successo venerdì scorso? Facciamo un applauso. Metaforici, ovviamente. Non ovviamente. No, l'applauso parte comunque. Venerdì scorso c'è stata la festa contadina in Piazza Tasso, no? A seguito del mercato, organizzata dalla comunità di resistenza Gerome La Rosa, dedicata a tutto il quartiere. E com'è andata? Chi vuole raccontare qualcosa? Io direi qualcuno che era presente. Io c'ero dal primo pomeriggio, quando c'è stata il lancio dell'AMB. Il libero ambulatorio di medicina popolare, nel primo pomeriggio, uno spazio per tutti coloro che vogliono avere delle consulenze gratuite da esperti ed esperte nel settore delle medicine olistiche, ma anche tradizionali e allopatiche, come si suol dire. E ricordiamo il lancio, perché sarà presente tutti i venerdì. Esatto, tutti i venerdì il pomeriggio, e quindi insomma passate. Dopo quello c'è stato ovviamente come sempre il mercato e poi una bellissima festa contadina rionale, la festa d'autunno, e vi lascio raccontare un po', lascio raccontare a Sancho. Vai Sancho, in cosa consisteva questa festa? Cosa c'era? Cosa si è fatto? Chi c'era? Quante persone c'erano? Allora, diciamo che già dall'inizio del pomeriggio, da quando siamo arrivati lì a montare i banchi, c'era già una grande presenza in piazza da parte delle persone del quartiere. E c'è stato un appunto, come diceva Camicia, una bellissima assemblea durante il pomeriggio a cui hanno partecipato una cinquantina di persone, su appunto riappropriazione della salute, quello che significa ora all'interno di un quartiere avere uno spazio come un ambulatorio popolare autogestito e appunto riuscire ad arrivare a un'informazione, una formazione sulla salute che sia accessibile a tutte e tutti. E diciamo subito dopo il mercato già la piazza si stava affollando e come avevamo promesso, come comunità di resistenza contadina Geronimo Laronze, abbiamo festeggiato con il quartiere un anno di mercato, ma anche un anno di autogestione, un anno che per noi ha significato moltissimo perché è stato lo strumento attraverso il quale siamo arrivati in città e abbiamo avuto appunto la possibilità di incontrarci con quelle che ora sono i nostri coproduttori, che sono le persone che partecipano alla nostra assemblea e con le quali abbiamo stretto un legame. Per cui per ringraziarli abbiamo scelto di offrire questa cena con i prodotti Pentoloni carichi, carichi di. pentoloni e pentoloni di zuppa, quindi il secondo nome della festa d'autunno era Ti do una zuppa, che ben ricordo. Solo zuppa. Ma io ho visto una pecora che è saltata dentro Il un pentolone si è lasciato pentolone. cuocere per onor di convivialità. Sì. Speriamo quindi che sia la prima festa della zuppa di San Frediano. Non dimentichiamo il pastis. E sì, un attimo, un minuto di silenzio per il pastis. Per tutte le sue vittime, tra Questo è l'altro. stato sì, l'unica Numerose. nota, diciamo, di demerito in questa serata, perché poi è Ma finita a male per noi tutti. personalmente, perché ovviamente beviamo alcol puro e pensiamo che diluendolo con un po' d'acqua l'alcol puro diventi un liquore. No, No. resta alcol etilico con un po' d'acqua. Chiudiamo la pausa alcolisti Camicia, e... Camicia, non hai più 16 anni. No, ce n'ho 12. Non è 21? 21, credo. Sì, mi hai scoperto. 21 a dicembre. Sì, mi Andiamo. piacerebbe. No, nulla. quindi insomma, una festa uscita bene che soprattutto credo abbia coinvolto veramente tante persone, che per noi insomma, è significativo, no? Come comunità, perché per noi avere il quartiere che ci sostiene è veramente molto importante. Quindi vi ricordiamo comunque che venerdì vi aspettiamo in Piazza Tasso con ambulatorio e mercato e prossimamente speriamo altre feste o altre cene conviviali e sicuramente tanti altri eventi. Sicuramente vogliamo ringraziare innanzitutto chiunque del quartiere sia venuto venerdì sera, ci abbia sostenuto e sia venuto a mangiare insieme a noi. C'erano all'incirca 200 persone, quindi veramente un evento molto, molto grande. Vorremmo ringraziare anche la redazione di Fuori Binario che ci sostiene tutte le volte, sta al lato di Via del Leone, l'occupazione di Via del Leone, il GDNO dei Nidiaci. Non una di meno, e tutti chiunque abbia partecipato e contribuito alla riuscita di questo evento, di questa giornata e anche alla costruzione di un processo popolare che è nato ora a San Frediano e che il mercato e questa comunità attraversa ogni venerdì. Le cuoche e i cuochi, non E le so. cuoche e i cuochi, naturalmente. Ciao Favoloso. Andre! Soprattutto, bravi. Invece, per quanto riguarda gli eventi futuri, noi ovviamente sulla scia poi di questi momenti, no? Di convivialità, ecco, riproponiamo tanto altro e diamo un attimo una ripassata a quelli che saranno i prossimi avvenimenti. Ricordiamo insomma gli eventi presentati all'inizio di questa puntata e quindi l'appuntamento per sabato 27 dalle 12 in poi con pranzo condiviso in Viale Corsica e tutta una giornata di feste e di eventi organizzati in Viale Corsica dal Comitato di Viale Corsica e invece domenica 28 dalle 9 del 9 mattino. del mattino, puoi dircelo te Sancio? No, vai, dama. No, era meglio, insomma, la presentazione. Domenica mattina alle 9 del mattino la festa di inizio raccolta delle olive a Mondeggi, insomma, con il concerto. l'orchestra di Settignano che suonerà Grandissima l'orchestra. No, durante questa giornata, suoneranno un'orchestra. tra l'altro Dvorak, la Sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo, bellissima, Rossini, e Peri e Modugno, poi Johann bellissimo. Knauf e l'orchestra di Settignano. Quindi insomma, un weekend carico di eventi, di feste, di convivialità, mi raccomando, sì, non mancate. Non scordiamoci delle meditazioni contadine, delle danze popolari. Invece sono tutti mercoledì sera. Tutti mercoledì sera, esattamente. Le meditazioni contadine dove, non mi ricordo io? Le meditazioni contadine sono in Via del Leone, non mi ricordo esattamente il civico. Beh, esattamente... Mentre... L'esattezza non c'è. Cercate in Via del Leone dove trovate tanti murales e bandierine, mi sa che lì più o meno siamo nel posto giusto. Dopodiché il balli popolari, il circolo di Balatro, 18:30, Sabina. Vi aspettiamo. Armando, detto Armando, sta arrivando, fischiettando, ma la spiaggia è ormai deserta ed il sole sta calando. Guarda là, c'è un po' di pioggia, non si vede neanche Foggia, non si vede neanche il mare, dice Armando dalla nave. Un campo pieno di grano, un contadino alza la mano. Armando, Armando, Armando, un uomo terra e amianto. Armando, Armando, Armando, un uomo terra e amianto. E Armando Armando lei, Armando poi Armando crede che la vita è su un gran ciste, e tu ormigo ormiga triste, no giuro, sto da via, no, sigue soffriendo il sognador cabrón, no giuro, sto da via, no, sigue soffriendo il sognador cabrón. Verso in una bottiglia che non sia di vaniglia, che non sia di liquore, che non desti stupore, si accende un sigarillo, seduto sul naviglio, seduto in riva al fiume che puzza di marciume. Un mare pieno di fango, un pescatore che balla un tango. Armando, Armando, Armando, sparisce come d'incanto. Armando, Armando, Armando, un uomo, un fiume, un canto. E Armando ormai sparito, sparato un po' sfinito, raccoglie mandarini in un prato fiorito. Sfiorisce la sua mano, un petalo lontano, che ondeggia sopra il vento, che balla quasi in vano. Senza la chioma, lo chiama e gli dice ancora, Armando, non te ne andare, fatti valere e non mollare. Armando, non te ne andare, fatti vedere e non tornare. E Armando canta, Armando re, Armando poi, Armando crede che la vita è su un gran ciste, e tu ormigo, ormiga triste, no giuro, sto da via, no, sigue soffriendo il sognador cabrón. Dalla comunità. Ma perché? C'è una sola, una sola grandissima domanda riecheggia negli studios di Radio Contado ed è questa: ma perché? Perché c'è questa sigla che imperversa la nostra trasmissione, non riusciamo a fermarla. È la voce della comunità, il gallo, che qual miglior voce altisonante. vogliamo dire. Sì, ma sì, prima sì, di... bellissimo, bellissimo, questo è proprio perché ce la troviamo all'inizio. Prima di intervistare la voce che ci ha accompagnato fino ad oggi, quindi il nostro caro Sancho, ringraziamo Giacomo da Rosseto che ci ha mandato una mail, che anche lui dal treno, anche senza wifi, riesce comunque abbastanza bene a seguirci. Grazie sì. Giacomo da Giacomo, Rosseto. Ciao. Potrebbe essere un nome in codice, ma non lo sveleremo mai. Bene, dai, Sancho, siamo qua. Cosa ci vuoi raccontare? Come sei finito? A così domande aperte. Sì, sì, è il momento Marzulla. Sono domande molto aperte, insomma, finora, insomma, hai parlato molto bene, hai raccontato, insomma, del progettualità di Mondeggi, del bene comune, di come ci si riappropria della terra. Però noi vogliamo sapere, ma tu chi sei? Come è nato il tuo percorso? Come sei arrivato a dove sei arrivato ora? A dove sei oggi? Allora. Intanto metto una base romantica. Metti una base romantica. Metti sì, la musica di Titanic. sì, no, la musica di Titanic è un po' per quello. Perché io sono spezzino, sono ligure, vengo dal mare e non da queste colline. Ma qua ci sono arrivato. Diciamo, ero già passato a Firenze conoscendo. Alcuni compagni durante, diciamo, sì, durante il periodo dell'onda, lo possiamo dire, e nulla, in realtà ho avuto tutt'altra esperienza che di quella della campagna, perché diciamo la mia scuola superiore è stata quella del nautico, quindi eri un uomo di mare e adesso sei diventato un uomo di campagna. Sì, c'è stata questa trasformazione, però diciamo che mi richiamano gli elementi naturali, ecco. La natura richiama, ma quindi da uomo di mare a uomo di campagna come e quando? Allora, più o meno, insomma. Diciamo che al termine di un viaggetto dopo... imbarchi parecchio lunghi in nave, dopo essermi stancato parecchio un po' delle dinamiche del lavoro salariato in barca, diciamo a cavallo tra il 2014 e il 2015 mi sono riavvicinato in Italia, e poi durante questo periodo, settembre-ottobre, sono approdato a Mondeggi proprio prima alle porte della raccolta delle olive, e quindi niente, si sono accorti che servivano braccia forti, e quindi siamo ancora qua dopo 3 anni e mezzo. Per guidare la barca anche qua a Mondeggi, bene, bene. Ma com'è che hai conosciuto Mondeggi? Perché conoscevi già delle persone o...? Sì, no, in realtà appunto ho conosciuto Mondeggi attraverso alcune persone che vivevano qua a Firenze. Seguivo quello che stava succedendo durante il primo anno, quindi l'occupazione e un po' tutte le iniziative del primo anno, e una volta ritornato in Italia mi sono domandato perché non attivarmi e provare a scoprire un po' anche quelli che erano le altre qualità, altre cose che potevo, diciamo, esplorare, tra cui appunto anche la campagna, un tipo di lavoro, una concezione del lavoro più libera, più autogestita insieme ad altre persone. Quindi diciamo sei approdato a Mondeggi per dire voglio provare a fare quella roba lì, cioè a lavorare con loro, a mettermi in gioco su quello. Sì, poi diciamo ci siamo conosciuti nel tempo, ci siamo scelti e ora insomma ormai è... E ora Mondeggi cosa fai di preciso? Allora, adesso Mondeggi diciamo che è all'incirca, perché qua più o meno tutti seguono veramente diversi aspetti della vita della comunità a livello agricolo. Insieme a Duccio abbiamo due apiari con una sessantina di alveari, e quindi faccio apicoltura e mi occupo della vigna e degli olivi, diciamo, a grandi linee. D'inverno Poto, d'inverno Poto. Insomma, tanta roba, d'estate voglio dire. Tratto. E hai o non hai, perché insomma queste sono le voci della comunità che giungono, una grande vocazione politica? Pare tu sia un po' uno dei pensatori, no, e degli no. oratori. Assolutamente no, io sono quello che dà fiato alla bocca. No, sì, diciamo che in realtà appunto la scelta anche di Mondeggi è stata proprio dettata dalla necessità di riavvicinarmi al movimento, di riavvicinarmi anche a un modo di fare politica diverso che avevo già provato durante appunto il movimento studentesco prima e poi in altre occasioni, e penso che non ci sia atto politico più rivoluzionario di quello di cercare di creare comunità, aspirare all'autonomia e provarlo a fare appunto in queste modalità che prima vi abbiamo raccontato. Va bene, adesso stiamo cercando di capire cosa fare. Sì, allora Antonio, perché invece di una canzone oggi ci regalerà una poesia, però prima volevamo regalare noi un momento bellissimo. Un momento, sempre, perché non c'è stato il momento Frate Indovino e quindi dobbiamo recuperare, e oggi lo recuperiamo con una storia, insomma. Che ci legge Mulo. Eccomi, mi sono riseduto. Allora, ricordando a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che oggi è mercoledì 24 ottobre, ovvero Sant'Antonio Claret V. Altro che acronimi, sti santi. Esatto, e vi dedichiamo questa storiella che leggo per la prima volta, quindi speriamo. Detto in silenzio. C'era un re di Spagna che era molto fiero delle sue origini e dei suoi antenati. Ed era anche altezzoso e senza riguardo specialmente per i più deboli. Un giorno era in viaggio con i suoi dignitari di corte e stava attraversando una località dell'Aragona dove suo padre era caduto in battaglia. Lì incontrarono un eremita che stava radunando una grande quantità di ossa. «Cosa stai facendo?» gli chiese il re. «Onore a sua maestà!» rispose l'uomo di Dio. «Quando ho saputo che il re di Spagna sarebbe passato da queste parti, ho pensato di ritrovare le ossa di suo padre e ridargliele. Ma per quanto mi dia da fare, non riesco a trovarle, sono uguali a tutte le altre, quelle dei contadini, dei guerrieri, dei mendicanti e degli schiavi». Vada bene. Sentila. No, un ultimo domandone per il nostro ospite. A parte veramente uno dei sogni nel cassetto di Muro, dobbiamo dire che condurre un programma di audio storie, le audio cassette. Non lo sto già facendo. Sì, esatto, lo stiamo facendo. Vai, prego, Dama. Sancho, tu che pezzettino di osso ti senti? Che pezzettino di osso mi sento? Ossi di sempre. C'ho un osso duro. Sì. Sì, l'osso sacro pure. No, no, l'osso sacro, è importante. Sappi che l'osso sacro vale per tutti. Quindi, no, dai, tornando a cose serie. Non tutti di solito ci dedicano una canzone, ma tu ci dedicherai una poesia. Sì, volevo dedicarvi questa poesia a Radio Contado, a questo programma e a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Perché è una poesia significativa per te? È una poesia, secondo me, significativa in tema, diciamo. Poi le salutiamo poi qui, immagino, quindi salutiamo, lasciamo con questa poesia. Vai. Abbracciamole tutti. E ciao, alla prossima, ascoltateci e fateci ascoltare. Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono, attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare, significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu voz. combate, se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Mulo, oh, devo dire una cosa, hai sentito il profumo dei capelli di Dama? Mi è caduto dentro il naso, è davvero una conduttrice tricotomicamente perfetta. Veramente, prima con una, è arrivata questa arietta dall'alto di Frittole, era buonissimi, buonissima, cosa sarà? Il pueblo che si alza in la luce.